passano suoni in un secondo, mi sveglio e mi accendo. Non la trattengo, mi concentro, la spingo da dentro. E nel mio cuore la respiro, la filtro e la sento. La riconosco, è la mia musica. È il suo richiamo e non resisto alla sua tentazione. Ritrovo un senso ad ogni cosa se penso al suo nome. Mi rende schiavo e nel mio corpo lei fa da padrone. Non riesco a stare senza musica. Non passa un giorno che non vedo, non sento e non parlo. Non passa un'ora che non penso al mio modo di farlo. Non c'è un secondo in cui non sono impegnato a sfidarlo. Vorrei cambiarlo ed in futuro comprarlo, rubarlo. Mi riconcentro, focalizzo, mi spremo e mi ingegno. È troppo tempo che ho bisogno al mio fianco un sostegno. Cancello tutto e poi riscrivo cambiando di segno. A volte ho il dubbio se pentirmi oppure esserne degno. Ed ecco lei che si avvicina tranquilla e serena. Tiene per mano la mia forza e mi guarda la schiena. Mi custodisce quando canto e la voce non trema. Mi siede accanto e mi accarezza se scrivo un poema. Ci ho riflettuto e sai, non credo sia solo rumore. Come lo spieghi che trasmette sia odio che amore? Nei nostri occhi potrai leggere gioia e dolore. C'è chi ci crede, per sta roba si vive e si muore. Mi basta un suono in un secondo, mi sveglio e mi accendo. Non la trattengo, mi concentro, la spingo da dentro. E nel mio cuore la respiro, la filtro e la sento. La riconosco, è la mia musica. È il suo richiamo e non resisto alla sua tentazione. Ritrovo un senso ad ogni cosa se penso al suo nome. Mi rende schiavo e nel mio corpo lei fa da padrone. Non riesco a stare senza musica. È la sua voce che ogni giorno si fa più sentire. Diversi suoni da ogni disco a me piace condire. È lei che abbraccio ogni mattina prima di fuggire. È dalla sera lei che bacio prima di dormire. È un chiodo fisso e la mia testa continua a pensare. A volte persi in qualche rima comincio a sognare. Se in sottofondo sento un beat io continuo a volare. Ma cambio umore quando sento che devo atterrare. Che ci vuoi fare? Sono cotto e non voglio lasciarla. Adoro il modo in cui si muove ed io amo osservarla. Mi sento forte quando vedo che posso toccarla. Sono geloso se qualcuno la guarda e le parla. È solo mia e la divido con poche persone. Quei pochi stronzi che hanno fotta, rispetto e passione. Se in ogni testo insisto ancora nel farlo e nel dirlo, perché là fuori c'è qualcuno che riesce a capirlo. Mi basta un suono in un secondo, mi sveglio e mi accendo. Non la trattengo, mi concentro, la spingo da dentro. E nel mio cuore la respiro, la filtro e la sento. La riconosco, è la mia musica. È il suo richiamo e non resisto alla sua tentazione. Ritrovo un senso ad ogni cosa se penso al suo nome. Mi rende schiavo e nel mio corpo lei fa da padrone. Non riesco a stare senza musica. Musica. Musica. Io faccio parte di una lingua che viene scartata, di una cultura musicale rimasta arretrata. Da 50 anni che si canta la stessa menata. La nostra musica è ignorante, rimane ignorata. E spingo un genere che chiamano rap italiano, fuori dai canoni di base del suono uno strano. Dove metà di chi lo ascolta lo vede lontano. Dove quei pochi che ci credono sperano in vano. Ed io tra questi mi confondo ma faccio il mio gioco. Sarà che dentro queste vene mi scorre del fuoco. Sarà che in fondo non ricordo nel prima e nel dopo. Resto me stesso, metto in quinta, rincorro il mio scopo. Vivo tra un popolo che ascolta canzoni straniere, dove se chiedi di tradurre san solo tacere. Spero in futuro ci siano teste mature e sincere, o sta cultura perderà la sostanza e il potere. Mi basta un suono in un secondo, mi sveglio e mi accendo. Non la trattengo, mi concentro, la spingo da dentro. E nel mio cuore la respiro, la filtro e la sento. La riconosco, è la mia musica. È il suo richiamo e non resisto alla sua tentazione. Ritrovo un senso ad ogni cosa se penso al suo nome. Mi rende schiavo e nel mio corpo lei fa da padrone. Non riesco a stare senza musica.